sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università, tu che eri come colore e forme per Cézanne. Anche se adesso fuori è buio, un giorno smetterà, con te diventava sole anche una lucciola. Di tutte quelle che ho incontrato tu sei l'unica che senza fare nulla mi ha rubato l'anima. Se vuoi tenerla bene ma un giorno riportala, ti prego non farle del male, custodiscila. Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare, per te giuro ho sceso forse un milione di scale. Afferrami la mano prima di cadere, tutti i girasoli adesso son fiori del mare. Hey, se vuoi da bere ti offro un drink, rompi un bicchiere, sembrava un film. Tu vino bianco, io niente alcol, cambi discorso, parliamo d'altro. Dimmi che ore sono, dai, dimmi che ora siamo noi. Siamo un'ora indietro, sai, il resto lo vedremo poi. Siamo sentimento, ho un presentimento che il passato esiste, ma il futuro è incerto. Mentre perdi le parole, cerchi gocce dentro il mare, come pioggia di ricordi che non passerà. Cerchi dentro i tuoi sospiri, ti senti sempre più sola, per assenzio come fossi un quadro di Degas. Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare, per te giuro ho sceso forse un milione di scale. Afferrami la mano prima di cadere, tutti i girasoli adesso son fiori del mare. Ci siamo persi per riprenderci, ci siamo scelti per non sceglierci. Ma anche tra mille anni sarò ancora qui, siamo eterni come il bacio di Klimt.